בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Buonasera a tutti, benvenuti sulle nostre frequenze, questa è Blu Radio Veneto e voi siete all'interno di Blu Time Live, l'appuntamento serale che porta la musica dal vivo a casa vostra. Una buona serata a tutti in questo 4 giugno del 2013 da parte di Flavio Bilato e chi conduce insieme a me la trasmissione, ovvero Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, anche in questa serata si parte con la musica in versione acustica live per presentare sempre voci nuove, sempre panorami appassionanti di quella che è la nostra musica italiana, quella vera, con la M maiuscola e con la V maiuscola. E per fare questo dobbiamo ringraziare chi è venuto a trovarci in questa serata dopo una lunga corsa col treno, quindi lo salutiamo e diamo il benvenuto a Nico Maraia. Buonasera Nico. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Nico è venuto a presentarci un album assolutamente eccezionale, avremo il modo di ascoltare in quest'ora e mezza di trasmissione qualcosa del estratto dal suo CD che si intitola Diana e poi anche di ascoltarlo in versione acustica, visto che è dotato anche di tastiera e poi con un microfono particolare che forma i famosi reverberi classici che ascolteremo più tardi. Allora, innanzitutto Nico Maraia, questo album è assolutamente prezioso, ti vede protagonista assieme anche ai tuoi collaboratori in una musica non meno, come dire, etichettata secondo le leggi canoniche della musica, perché all'interno si trova un po' di tutto. Volendo mettere già qualche etichetta alle belle bottiglie che hai formato qui dentro, diciamo che c'è dell'ottimo jazz abbinato con la musica sperimentale, un po' di pop elettronico e anche un po' di caos cosmico, se vogliamo dirlo. Nico? Sì, soprattutto il caos cosmico. Un caos per determinare appunto certe situazioni, certi movimenti ritmici che portano a far sì che l'ascoltatore curioso possa ascoltare questo tipo di musica rigorosamente cuffiato, come facciamo noi speaker del martedì sera. Siamo tutti con le cuffie pronti ad ascoltare appunto la musica proposta da Nico Maraia. Innanzitutto allora il titolo dell'album è Diana. Hai scelto tra mille nomi femminili, c'è questa Diana, forse la dea anche della battaglia. Sì, ho scelto un nome per me molto evocativo, in realtà non è un nome della mia vita, era proprio un nome, non essendo della mia vita, per me è potuto essere un nome simbolico, quindi di una donna immaginaria. E non c'entra niente Polanca, no? No, Polanca no. Diana, diceva lui. Sì, Diana è un'altra cosa. È un'altra cosa. Però se riusciamo a vendere come Polanca. Ah, beh, allora. Sì, beh, effettivamente lui ha fatto strada. Adesso magari Diana cerchiamo di farlo conoscere all'interno della nostra programmazione serale. E poi dove abbiamo lasciato qualche lacuna c'è sempre la possibilità di entrare in contatto sia con Nico Maraia sia con chi distribuisce i dischi per conto di Nico. Allora vogliamo già fare una piccola pubblicità sin dal principio, ricordando quello che è il sito internet di Nico. www.nicomaraia.com. Benissimo, e quindi abbiamo già dato alcune indicazioni per vedere sin dal principio anche quella che è l'attività completa di Nico Maraia. Ma allora direi iniziamo subito con un pezzo, tanto per far capire ai nostri ascoltatori di che musica stiamo parlando, e quindi iniziamo subito un pezzo dedicato a un personaggio che proprio dal Veneto è partito per andare infatti, verso l'Oriente. Infatti anche il retro della copertina rappresenta quella mappa che parte proprio dal Veneto. E allora partiamo dal Veneto, anzi partiamo da Marco Polo, questa è la prima canzone che ci ascoltiamo dall'album Diana di Nico Maraia, eccola qua. Shadow. dopo il sogno si risveglia altrove, la luce che poi riscalda le parole, ragioni e musica che un giorno incontrerai. Uccidersi per perdersi e trovarsi a quest'amore più grande del sole. Svanisse il cosmo qua, lasciasse qui noi due, tu così come sei, io invece come mi vuoi, nascosti fra di noi, a masturbarci e poi spingerci in un cielo ancora grigio. Senza te, senza far confusione mentale, non so più guardare dentro me senza far confusione tra l'uomo e l'animale. Quest'amore così caldo, quasi atroce. Stare accanto a te senza far confusione mentale, non so più restare solo con me contenendo ogni istante l'istinto più animale. Sembra quasi spento ma è un effetto del momento. Quest'amore della schiuma del mare, la nave spaziale, la notte d'amore, c'è un bacio regale. Quest'amore più caldo del sole. Bastan le parole, ragioni e musica che incontri, uccider, perdersi e trovarsi a quest'amore più grande del sole. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. 5 minuti e più di un pezzo davvero magico per iniziare il nostro incontro con Nico Maraia, che ci sta proponendo il suo lavoro che si intitola Diana, dal quale abbiamo estratto questa Marco Polo, che inizia un po' mistico e, come si diceva prima, anche cosmico, poi con questi pianoforte dedicato e poi improvvisamente l'atmosfera reggae, anche se non è propriamente vero che Marco Polo sia mai stato in Giamaica, è andato assolutamente verso est a incontrare i cinesi e forse ecco c'è stata qualche importazione diversa da quella che si potrebbe importare dalla Giamaica, e comunque i suoni erano essenzialmente quelli, con un sassofono a sorpresa e un'armonica finale a riportare quasi un reggae country, possiamo dirlo così. Allora, Marco Polo, Nico Maraia l'abbiamo qui in studio, lo terremo stretto stretto fino alle 22:30 per riuscire a capire di più della sua musica. Questo Marco Polo, tu mi facevi capire anche quando prendevamo gli accordi per questa diretta che c'era un viaggio introspettivo che proprio vedeva come protagonista un viaggiatore, non uno a caso, Marco Polo. Sì, in realtà Marco Polo è arrivato per ultimo nel disco, nel senso che ho cominciato a immaginare questo viaggio, un viaggio, ma io dico che è un viaggio simbolico, un viaggio più forse nelle emozioni e nei cervelli umani che un viaggio fisico. Quindi alla fine, proprio verso la chiusura della scrittura di questo disco, mi è venuto questo Marco Polo. Mi è piaciuta l'idea di aprire il disco con un viaggiatore immaginario che io ho chiamato col viaggiatore, potremmo dire. Il viaggiatore in assoluto, per eccellenza, nel senso più ampio del termine. In realtà per me, poi a me piace sempre che l'ascoltatore dia la sua versione. Secondo me è un disco non ha una interpretazione corretta, deve avere tante interpretazioni, ognuno deve dare la sua. Certo, e questo reggae, molto molto rallentato, quasi tirato sì, finché sì. Si deve spezzare, non si è mica spezzato però il reggae. È un'idea tua questo reggae molto rallentato? È un'idea, sì, forse un po' rubata a Lucio Dalla. Ecco, leggermente, sì, leggermente. Sì, è una citazione anche quella. Quindi ho rubacchiato di qua. Ma non hai rubacchiato, ti sei ispirato, non hai rubacchiato. No, come diceva, chi lo dice? Tarantino, non mi ricordo chi lo diceva, che in arte quelli bravi rubano e quelli meno bravi copiano. Ecco. L'importante è rubare bene per non finire poi in gattabuia. Vabbè, allora Marco Polo, che comunque è tra i testi in cui hai alcune collaborazioni importanti, no? Quindi già citiamo Priscilla Bei e Matteo Bonfanti, che sono stati determinanti in questo pezzo. Sì, un bravissimo cantautore Matteo Bonfanti e una cantante notevole, Priscilla Bei, romana. E hanno partecipato, hanno dato dei piccoli contributi anche loro a questo testo. E appunto, quello che dicevo è Marco Polo, poi, secondo me, nella mia visione, è ognuno, un viaggiatore che prende questo nome, ognuno può diventare questo Marco Polo. E anche questi due autori hanno collaborato nel... Adesso anche loro Marco senso. Polo praticamente. Anche loro sono dei Marchi Poli. Esatto, di Marchi Poli. Benissimo, allora a proposito salutiamo anche i nostri amici veneziani che sono all'ascolto di Blu Radio Veneto, visto che Marco Polo arrivava proprio... arrivava da lì, anzi partiva da lì per andare in Cina per poi ritornare assieme allo zio Marco, sì. Lo zio... Non mi ricordo il nome, comunque non importa. Non importa. Allora, poi è scritto il milione e via così. E allora, noi siamo fortunati perché Nico Maraia è arrivato, appunto, come si diceva, con le sue tastiere, e quindi adesso ci ascoltiamo un altro pezzo che poi torneremo a commentare insieme. Un titolo un po' lungo, allora lo leggo. Tango nel riflesso del bicchiere. Allora ce lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme qui a Blu Radio Veneto. Son pleniluni che t'aspetto, ascolto il veglio con... come un gatto, come una serpe nel mio seno è consumato il tuo veleno. Non ho più soldi, non ho più sogni, non ho più fame. Mi rende solo un po' più triste andare a puttana. Na, na, na, na, na, na. Rossa in bocca ed un vestito di lamè, nel mio bicchiere perdo gli occhi, il suo riflesso svela che ti spogli i tuoi capelli sciolli scivolando verso me. Ma è solo un tango, i miei piedi dentro il fango, rido fuori dentro piango, piango e non ricordo più. Arrossisci, gemi e tremi, il tuo respiro è su di me, mentre i miei pensieri scemi mi tradiscono, perché se mi guardi e non mi parli cerchi solo dentro me. I passi lenti del mio tango, i miei piedi dentro il fango, 100 litri di rimpianto, 100.000 rose blu. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Poi ti doni, sogni lividi e paillette, sono i segni di un dolore che cancelli in un caschetto, sono sguardi fra due cuori che in silenzio scelgono che sia solo tango, fingo gioia mentre danzo, fuori tremo intanto sento canti dentro tu. Tango, tengo i piedi dentro il fango, mi disperdo nel tuo incanto fino a non uscirne più. Son pleniluni che t'aspetto, ascolto e veglio come un gatto. Come una serpe nel mio seno hai consumato il tuo veleno. Blue Time Live. All'interno di magiche emozioni ci troviamo in questa serata all'interno di Blue Time Live e Blue Radio Veneto. Ancora una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, che è veramente estasiato da questa musica, e ringraziamo ancora di essere venuto Nico Maraia. Ci sta presentando questo suo lavoro che si intitola Diana. Abbiamo ascoltato Tango nel riflesso di un bicchiere, che parla di un'infinita attesa che rende sempre più nervoso, per poi partire con il tango di un incontro molto forte a metà tra, diciamo, le lacrime e il sorriso. Poi alla fine non l'abbiamo sentito in questo pezzo perché naturalmente in versione live acustica qui in diretta, ma poi verso la fine del pezzo sul CD, e questo è un buon motivo per farselo proprio questo CD, c'è un pezzo di fisarmonica che entra molto delicata, proprio alla tanghera, si può dire. Nico? Sì, ho voluto, in un tango non potevo non mettercela, no? Beh, chiaramente, però hai cantato, hai interpretato il tango in un modo molto particolare, secondo me. Quasi brechtiano, alla Brecht. Hai vagato con il tango. Il tango era su un motivo, praticamente. Sì, il tango è un pretesto. È un pretesto, esattamente, per sviluppare un tema musicale. Tango sì, però con tanti altri addentellati che giravano, che vagavano. Ti ringrazio di aver citato Brecht addirittura. Sì, perché sei un teatrante nel senso positivo, un musicante, ti definisci un musicante. Mi piace dire che sono un musicante. Ma noi che ti abbiamo visto anche, diciamo, su YouTube e in altre situazioni, sempre presenti su internet, ti abbiamo visto anche con un costume davvero particolare, quasi un Pierrot. Dei nostri giorni, mi sto riferendo forse anche era... alla copertina. Sì, mi piace nel mio spettacolo dal vivo cercare di dare un'immagine ai personaggi che racconto, cerco di non essere sempre io sul palco, cerco di cambiare, di trasformarmi nella storia. Forse volevo fare l'attore, non può darsi. Ho sbagliato. Però hai portato una cosa, non c'è la bombetta stasera, però ce l'hai portato. Però la mia maglia riga. La tua maglia riga c'è, è lì pronta, è lì fermo. La divisa ce l'ho. In effetti ci siamo riconosciuti questa sera, dopo i vari contatti telefonici, ci siamo riconosciuti proprio perché lui portava la maglietta a righe classica che avevo anche intravisto nel CD. Allora, un disco che hai voluto dedicare rigorosamente a tutti, quelli che hai incontrato, quelli che incontrerai e quelli che stai incontrando, perché hanno avuto la capacità di venirti a sentire, a vedere, ad incontrare, a sentire le tue emozioni in musica. E anche a quelli che non incontrerò direttamente, ma magari incontrerò attraverso la musica. Questa è la cosa che più mi piace della musica. Benissimo, allora vediamo un attimino di capire qual è stata un po' la formazione artistica di Nico Maraio. Una formazione tra Lombardia e Lazio. Come mai? Due regioni che sono un po' distanti tra loro. Perché io da famiglia veneta, quindi sono vostro parente. Così. Sono nato a Lecco in Lombardia, sono cresciuto là e poi molti anni fa mi sono trasferito a Roma e lì ho proseguito i miei studi, i miei incontri e le mie avventure. Degli incontri importanti musicali a Roma. Sì. A Roma ho avuto dei belli incontri, ho avuto la fortuna di conoscere Raffaella Misiti, che è una bravissima artista ed fa parte del nucleo fondamentale di Gusti Manti, che tra l'altro è coautrice di un pezzo del disco, chiaramente, e devo dire è una persona fantastica ed è una cantante che chi non la conosce la vada a cercare su internet, cerchi di Gusti Manti, penso che sia una delle voci migliori in Italia. Tante cose, poi in scaletta abbiamo proprio il pezzo che è stato, diciamo, scritto in collaborazione con Raffaella Misiti. Sì, no? Sì, sì. Quindi avremo modo di ascoltarlo. E poi? E poi ho incontrato Andrea Rodini, per esempio, che X-Factor, poi Luca Mannuzza. Luca Mannuzza, un pianista fantastico, una persona eccezionale anche lui, è un pianista notevole. Chi ama il jazz deve sentire Luca Mannuzza. Avanti in I Five Quartet, adesso credo giri più da solo, però è proprio un grandissimo pianista. E cosa ti ha insegnato Luca? Con Luca ho studiato molto jazz perché appunto perché è il suo campo, anche certo, lui certo. Poi conosce benissimo la classica e devo dire lui mi ha insegnato in modo molto indiretto ad amare quello che faccio io, che è distante da quello che fa lui, però a rispettare ed amare quello che è la mia musica, che è più, volendo pop, volendosi mettere nell'ottica di un jazzista forse una musica più semplice, ecco, esatto, più semplice, non più pop, secondo me più semplice possiamo dire, perché pop vuol dire tante cose, anche se poi è più semplice da alcuni punti di vista, forse è più complessa da qualche altro, esatto, da, che ne so, dal punto di vista dei testi, dal punto di vista delle immagini, cioè, è una forma d'arte diversa, quindi diciamo che il tipo di musica proposta da Nico in questa serata è proprio quella musica che si ascolta molto meglio di sera, no? Che è quella che ti crea anche un po' l'atmosfera, anche se... Ma non perché fa dormire, eh? Non, no, perché fa dormire, assolutamente. C'è bisogno sempre di suoni nuovi, delicati, rilassanti, e in questo CD se ne trovano molti di questi suoni. Allora noi proseguiamo con l'ascolto di un altro pezzo tratto da questo CD che si intitola Diana, e allora ascoltiamoci Il ratto, ritratto, bel titolo. Blue Time, Blue Time, Blue Time, Blue Time. Sono il ratto, un artefatto di superba qualità. Non perfetto, ma lo metto molta personalità. Io sono libero, non giudico, non predico e non ho molto da fare. Sono affascinante, questo è chiaro ed evidente a tutte quante. Non ti stupirai se non mi va di perder tempo assieme a voi. Io sono libero, non pratico, non medito, non cerco verità. Rispetto, giudicando il vostro aspetto, non vi trovo proprio tanto di divino e di perfetto. Seppur non per far dispetto, me ne vado e non vi aspetto. Troppi criticano il fatto di girare con un ratto. Sapere quel che so, pressoché perfetto, condivido raramente quel che ho. Sono infantile, amo impiegare le mie ore poetando a non finire. Sono un ratto bianco ed ora sono stanco di parlare. Sono sadico, sardonico, satirico, simpatico, pratico, platonico, preciso e un po' lunatico, di vero, timido e dispotico, patetico e nevrotico, io sono stupido e poetico, ma magnifico e magnetico, niente da normale. Semplicemente un sex appeal fenomenale. Sono schietto e sempre detto con rispetto, non accetto questo fatto di parlare assieme a un ratto. Non ho affatto detto ratto, detto smetto di fumare. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato questa canzone, si intitola Il Ratto, è un ritratto, come si dice nel sottotitolo, e quindi si inizia tutto con uno schiocco di dita, poi ancora un monologo, direi molto, molto teatrale all'inizio del pezzo, quasi da cabaret, come si definiva prima, e una visione di Nico Maraia sul palco, vediamo se abbiamo preso giusto, quasi con frac e tuba, si può dire, per investire questo personaggio. È il tuo ritratto o il ritratto di una persona che ti è antipatica? Perché in un certo momento mi sembra di intravedere un po' di, come dire, di attacco al mondo da questo personaggio così graffiante. È una persona non antipatica, è una persona che forse è un aspetto di me comunque, però è una persona sgradevole o ritenuta sgradevole. Il personaggio è un ratto, quindi sì, diciamo un animale non propriamente amato, no? Assolutamente non è nemmeno un topolino, è proprio un ratto, quello un bello rattaccio. Grosso, esatto, quello bello grosso, chiaramente. Però è un ratto che si dà molte arie e che è stufo di essere giudicato, dice insomma non vedo cosa abbiate da giudicare voi. E il gioco ironico in realtà voleva andare un po' sull'emarginazione, no? Prendere chi è emarginato e chi è ritenuto sgradevole e dargli voce. E questo è stato il gioco che mi è piaciuto fare. Non so se poi arrivi e non arrivi, forse a volte arriva molto ironico, però era questo, è una persona ritenuta sgradevole che dice la sua. Sicuramente è arrivato, visto che ha smosso parecchie giurie questo pezzo. Sì. Ne parliamo, dai. È stato un pezzo che ha portato fortuna, è arrivato terzo al Festival degli Autori a Sanremo. E che non è cosa da poco. Che non è cosa da poco. Visto che ci sono tanti autori in Italia, Nico, sei messo là e sei arrivato terzo, è una posizione di ottima fattura. Ottimo, infatti è stata una grossissima soddisfazione. Che poi è uscito anche il tuo primo videoclip ufficiale, grazie al Ratto, per la regia di Valerio Perini. Bravissimo regista. E poi sempre tra i 10 finalisti, sempre nel 2011, del premio Bottega d'Autore. Sì, Bottega d'Autore, sono arrivato in finale con questo brano e ci siamo divertiti lì, ne abbiamo fatto una versione molto rock. Bene, questa è cosa positiva. È andato bene anche lì, quindi si è fatto notare, diciamo. Questo persona sgradevole è andata in giro e è riuscito a dire la sua. Dai. E poi sei arrivato anche finalista al premio Stefano Rosso, che è importante il premio Stefano Rosso, visto che qualche settimana fa abbiamo parlato con Simona Vincola e ha fatto questo documentario meraviglioso su Stefano Rosso, che anche musicalmente, in alcuni momenti, non so se mi posso permettere, c'è qualche collegamento con Stefano Rosso. Sì, sicuramente non voluto, nel senso non che voluto, io chiaramente. Non avevo una profonda conoscenza di Stefano Rosso fino appunto quando sono andato a Roma e l'ho conosciuto molto di più, soprattutto grazie appunto a Simone Avincola che sta facendo molto per tenere vivo questo nome. E forse non lo so, qualche cosa a livello caratteriale di Stefano Rosso, non lo so, c'è qualcosa che ci accomuna. Sì, è arrivato il nostro direttore artistico. Salutiamo Alberto Prisco, poi dalle 22:30 ci farà compagnia con Rock Wave, l'onda del rock nella versione classifica, quindi tanti pezzi interessanti e importanti del nostro panorama nazionale e internazionale nell'ambito rock. Ma continuiamo con l'intervista con Nico Maraia, anzi più che continuare con l'intervista, continuiamo con la musica che Nico ci propone in questa serata, e quindi adesso ci ascoltiamo un brano di una raffinatezza unica, suonato dal vivo, lo sarà altrettanto, lo sentiamo anche noi per la prima volta, mentre vi possiamo garantire che il pezzo all'interno del disco che si intitola Diana è di una dolcezza infinita. Allora, come si intitola, Nico? Faccia di luna, giusto? Faccia di luna, sì. Okay. Benissimo, ce l'ascoltiamo qui all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, chiamata appunto Blu Time Live. Vai, Nico. problemi, non si sente più un rumore, sogna e fuma la città. Il cielo la carezza ed i suoi semi sono stelle luminose sparse nell'immensità. Nulla splende e brilla come te, viso di luna che mi vieni a svegliare. La notte guarda in basso e vede il mare, c'è una nave e il suo rumore l'abbandona in una scia. Si insinua nel suo letto e poi per ore si diverte ad ascoltare, poi ridendo fugge via. Mentre nulla mi sorride come te, luce di luna che mi vieni a guardare. Nulla, non dir nulla perché lei non si deve svegliare. Piccola luna che mi vieni a svegliare. Ma che bel pezzo, veramente ci ha fatto un grande onore a farlo qui dal vivo con la sua tastiera. Noi lo ricordiamo anche nella versione da disco. Da disco, oltre al pianoforte che abbiamo ascoltato, ci sono anche gli archi, c'è un violino, c'è tutta un'altra... un violino di Luca Rocco. Luca Rocco, lui. Non un violino a caso. Purtroppo non posso per ogni persona che ha collaborato a questo disco stare a spiegarvi che persona e che musicista è, ma vi assicuro che è pieno di veramente grandi persone e grandi musicisti. Luca Rocco, violino e viola all'interno di questa canzone, è pieno di collaborazioni il tuo disco. Speriamo di riuscire a ricordarli tutti, ma già li hai ricordati anche tu nella copertina del tuo CD, per cui chi vorrà farsi proprio questo CD poi potrà vedere anche di chi ti sei avvalso per la struttura di questo disco. Allora, Faccia di Luna, resta questa frase dove tu dici: nulla splende e brilla come te, ma lo dici in una maniera davvero davvero forte, davvero convinta, e questa è anche, diciamo, è una ninna nanna, si può dire, no? In un certo senso, e mentre chi avrà il modo di ascoltare anche il CD sentirà ancora gli effetti di quello che è stato il primo piede sulla luna, perché naturalmente da Faccia di Luna si parla anche di luna, di quella faccia che gli americani hanno scoperto, diciamo, mentre ricordiamo che Dark Side of the Moon ancora devono ancora vederla. Sì. In questo caso. Bene. Bene, allora, Faccia di Luna, come è nato, Nico? Faccia di Luna è nato dall'ispirazione di un brano brasiliano famosissimo che è Acquarello. Toquinho. Nella versione italiana mi piace molto il testo, e quindi ho voluto anch'io fare una sorta di dipinto musicale. Io, a differenza di Acquarello, ho dipinto una notte. Poi questo brano è stato molto difficile da chiudere, perché poi non mi convinceva, non riuscivo, mi mancavano poche parole, ma non trovavo le parole, una cosa difficile per gli autori, delle parole vere, nel senso, sentivo che era un bel esercizio, ma mancava un po' di cuore nella canzone, mi mancava qualcosa di vero, e ho impiegato molto tempo, qualche mese, per trovare il motivo, e il motivo che poi ho dato a questa canzone è stato il tormento di una persona sveglia di notte, che vuole qualcosa che forse non può avere, e nella canzone lui o lei si rivolge alla luna. Cioè, l'uso degli archi dà anche quella, proprio la dimensione della notte, il notturno, assolutamente. Sì, sì, sì. La musica l'avevi già ideata prima del testo, allora? Guarda, nascono sempre più o meno insieme. Allora, diciamo, l'atmosfera, la prima radice del testo e la musica di solito le stendo insieme, perché mi escono così insieme. Poi, diciamo, la musica si struttura e piano piano completo il testo. Però anche la musica poi si va sviluppando magari in base al testo. Sono molto confuso anche in questo. Flavio citava la tua interpretazione molto forte. Caro Flavio, io ho davanti Nico. Sei fortunatissimo. Sono fortunatissimo, come sempre. Sì. E l'avevi proprio dentro questo pezzo. Si vedeva dalla mimica che facevi quando suonavi, giravi nella scala del piano, l'avevi proprio dentro, profondamente dentro. E questo è molto positivo, la gente lo sente, anche se non ti vede. Speriamo. Sì, sicuramente, sono convintissimo di questo. Ecco, dobbiamo portare dei saluti a Nico Maraia da parte di Claudia Loddo dei Mardi Gras. Esattamente. Claudia, quindi, ciao Claudia. Ci sta ascoltando, lo stanno facendo anche molti altri, oltre che le nostre frequenze classiche, quindi via FM tradizionali con l'antennona, siamo anche ascoltabili via streaming audio, quindi salutiamo anche tutti gli internetari all'ascolto che hanno voluto usare come sottofondo sonoro la nostra radio, e in particolare la musica di Nico Maraia. Io stavo anche un po' curiosando, visto che mi è permesso da questa postazione, anche un po' su quello che il tuo sito internet, che è molto molto composto e nello stesso tempo trova tutte le risposte alle domande, quindi anche con tanto di testi, anche delle canzoni di alcune canzoni che poi sono già all'interno di questo che è il booklet che hai fatto comparire all'interno di questa copertina curata molto bene, dove da una parte si vede una silhouette, diciamo, femminile vista da dietro, dove la schiena cambia nome, si può dire così, ecco, e poi invece dall'altra parte una struttura geografica che porta a quello che era il discorso del principio, ovvero questo viaggio di Marco Polo, che parte appunto da Venezia per ritornarvici passando per varie diciamo esperienze, e quindi si torna a parlare anche in altre tue canzoni o melodie sempre di questa via della seta, in particolare anche di quel pezzo svolto solo in maniera strumentale che si intitola sì. La seta, perché seta. Anche di strumentale abbiamo qui dentro. Sì, sì, sì, sì. Anche lì abbiamo voluto seguire il viaggio, quindi far entrare suggestioni più che suggestioni da quel mondo, da quel viaggio di, che in quel caso era di Marco Polo. Certo, anche perché ascoltando bene Seta ci si imbatte su molte voci che tu dicevi, Nico, fanno parte un po' di quello che è il viaggio. Viaggiando si ascoltano molte voci e per cui dalle voci molte, molte emozioni che si fanno proprie e si, diciamo, importano in un certo senso. Sì, sì, in questo disco ho voluto fare un gioco, uno dei tanti giochi che ho messo in questo disco era usare la parola in tutti i modi, cioè nelle canzoni la parola ha un suono e dice qualcosa. Ho messo un brano che voi conoscete, Diafana Diana, in cui la parola è solo parola perché è un brano recitato, e poi ho messo questo Seta in cui la parola voleva essere esclusivamente suono e non narrazione, quindi è usata come strumento, non è una voce cantata, sono tante voci che danno un effetto strumentale, almeno questo era il gioco l'idea, che abbiamo provato a mettere. Sì. E quindi si riprende il discorso del presentarsi davanti al palco, il teatro, anche questo fa parte del teatro secondo me. Forse sì, ripeto, forse sì. Ripeto, sono sempre più convinto di aver sbagliato. Forse sbagliato mestiere. No, comunque anche nel tuo mestiere è sbagliato, Nico, ci stai riuscendo, e diciamo molto bene. Allora ci ascoltiamo un altro pezzo dai contorni diversi rispetto a quelli che abbiamo ascoltato sin qui. Si intitola Radiazioni, e quindi è una blu radiazione in questo caso, visto che siamo a Blu Radio Veneto. Eccola qua. Per non farmi poi dormire più. I raggi che attraversano i muri e le pareti sono voci dall'inferno e non le ascolterò. Lo so che non esiste tutto questo, ma è un pretesto, non mi vogliono fare guardare più la mia TV. Radiazioni. Conferire, complottare, mostri sciocchi, siete umani, vi sconfiggerò. Antenne come occhi, croce, fissi come mani, sciocchi, mostri disumani, non ascolterò. I raggi che attraversano i muri, le pareti, comandati dall'inferno e dal suo esercito. Che so che non esiste, però intrepido resiste, e mi angoscia fino a farmi non dormire più. Radiazioni. Thank you. mosse non mi muoverò. Lo so che tutto questo non esiste, ma è un pretesto solo per guardare ancora un po' con la TV. Radiazioni. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Ancora buonasera per gli ultimi arrivati, questa è sempre Blu Radio Veneto, Blu Time Live. Stiamo ascoltando dei pezzi davvero interessanti, sia dal CD sia dal vivo, perché in questa serata abbiamo Nico Maraia, che è venuto a presentarci il suo lavoro intitolato Diana, e questa volta spazio a quella che è la musica elettropop, reggae anche in questo pezzo. L'avevamo già incontrato all'inizio con il pezzo intitolato appunto Marco Polo. Queste radiazioni con continue influenze tecniche e di variazione di tendenza musicale, diciamo così, dove c'è un intervento di una persona un po' sadica, diciamo un po' maligna, se vogliamo dire, che vuole stravolgere l'esistenza di chi sta, diciamo, cantando e portando avanti il proprio pensiero. Il tutto poi, come abbiamo sentito, verso la fine del brano, con un super pezzo di sax jazz in questa di versione. Olimpio Ricciardi. Ecco, bravissimo. Qua salutiamo anche Olimpio Ricciardi, quindi abbiamo aggiunto un nuovo nome alla lunga lista delle persone da salutare e da ringraziare. Riccardi, scusate. Ah, bene, Riccardi. Nico bene. Parlava è arrivato un bacio, scusami Maurizio, è arrivato un bacio da Laura Massei, scusate, ci tenevamo a dirlo. Ciao Laura. Salutiamo anche tutti gli amici che ci seguono anche con Facebook, e proprio in questo momento Alberto Prisco ha inserito all'interno di Blu Radio Veneto e Blu Radio Veneto Rock Wave, che sono i due Facebook amici, che ha inserito proprio la foto dedicata a Nico Maraia in questa serata. Sì, Nico, in questo pezzo parlavamo, mentre il pezzo andava, del calendoscopio di colori che ha questo pezzo, e parlava anche del prog. Cosa ne pensi, Flavio? Qualcosina c'è di prog? Qualche spunto? Assolutamente, assolutamente. Allora, merito a quella che è la sperimentazione continua che Nico vuole tenere all'interno di ogni pezzo, perché abbiamo notato, non è solamente lui diceva no, la mia musica pop, forse meno jazz. In realtà il pop viene considerato un po', come dire, più lineare. In realtà nelle canzoni che abbiamo ascoltato di Nico, linearità ce n'è davvero poca, nel senso che c'è tutto un continuo, come dire, maneggiare la canzone, voltarla, rivoltarla, adagiarla e poi rialzarla improvvisamente. Tutta la mia schizofrenia. Eccola. È un caos creativo, Nico, no? Sì, caos, sì. Caos creativo, assolutamente creativo, perché in questo pezzo abbiamo tutte le due diverse facce. Sì. Cioè, io metto tutto, quello che mi viene in mente lo metto, a discapito dell'ascoltatore. No, a discapito, a favore dell'ascoltatore. Giocando. È interessante cercare, scovare. Mi piace cercare di mettere tutto, di non essere inquadrabile in un genere. Forse a volte questo è commercialmente uno svantaggio. Io lo trovo culturalmente interessante. Ci provo. Chiaro. Assolutamente sì. Allora proviamo ad ascoltare un altro pezzo, questa volta nella versione live. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che Nico è arrivato con la sua amatissima tastiera per farci ascoltare un altro pezzo assolutamente meraviglioso, lo diciamo in partenza. Si intitola il gioco dell'assenza. Ascoltiamolo. Thank you. Marchito, la questione sembra quasi essere irrilevante. Se non hai fatto niente, allora torna qui. È il pubblico da amplificare a far sembrare tutto più importante. L'applauso della gente che ci riporta qui. A sfiorare il mare, a ricordare, a farci far l'amore. Il dato non arriva quando espresso da un linguaggio non coerente. Se non puoi dirmi niente, sorridi almeno un po'. Idee come fortuna o la fiducia spesso limita la mente. Quanto imbarazzante, ti aspetto ancora, tra insonni rare, cornici scure. Ma il gioco dell'assenza, divisi in una stanza, vicini in apparenza, la pancia, il sangue sulla porta, la pagina già bianca, le macchie della pioggia, disegna la distanza. Petalo perduto e capovolto nella schiuma di un torrente. È quasi divertente guardarti, sai, da qui. La pioggia e il suo profumo si trasformano in un ciclo affascinante. Li seguo attentamente. Mi senti ancora? Chiami amore, sai farmi male. Nel gioco dell'assenza, là fuori dalla stanza, nel buco sulla porta, la mia corrispondenza, le lettere d'amante, le lettere di stanza, la pace è un gioco scritto, l'affitto chi lo paga, questa volta ancora tu. A ognuno il suo assassino, a ognuno il suo tesoro. Ognuno a volte uccide, ognuno a volte è solo. Ognuno si allontana, poi torna sul rimpianto. Ognuno un po' puttana, ognuno a volte è un santo. Ognuno compra i libri ed alla fine non li legge. Ognuno viaggia assorto, sbaglia strada e si corregge. Ognuno scrive rime o appunta delle liste. Per ogni cosa ingiusta poi qualcuno sarà triste. L'assenza ci unisce una distanza, finisce nel silenzio, riposa se sei stanca. Blue Time Live. Il gioco dell'assenza. Nico Maraia qui all'interno degli studi di Blu Radio Veneto, mentre salutiamo anche Priscilla Bay e salutiamo che dice bravo Nick. Ciao Pri, grazie. Quindi che onore anche per noi essere così in sintonia con Priscilla Bay. E poi ancora Alberto Caneva o Caneva. Caneva. Caneva, sì, che dice Nico. Priscilla Bay è la cantante che dicevamo prima. Sì. E Alberto Caneva, Alberto Albix Caneva è il mio contrabbassista dei tour romani. Ciao Albi. Quindi hai fatto qualche concerto con lui a Roma? Qualche concerto. Più di un qualche concerto. Sì, ed è anche la voce di Diafana Diana. Ed è la voce, quella bellissima voce di Diafana Diana. Sì, dove si sente veramente questa storia così recitata. Un po' fa parte di quello che è il teatro dell'assurdo, no? Dove si fa i conti con le respirazioni portando avanti un discorso non discorso che però alla fine porta sempre a un finale della serie. Chi siamo? Da dove veniamo? Dobbiamo studiare una cosa, Flavio, lei ha detto a me, adesso Nico. Piace, si sentiva bene in questo pezzo, si è sentito bene anche negli altri, ma in questo particolarmente, vero Nico? Perché ti piace, sei dentro, proprio fai parte, un tutt'uno con questo pezzo. Questo pezzo me lo gusto sempre, dal vivo, lo sto facendo spesso, sempre, e tutte le volte mi piace. Anche musicamente è un pezzo abbastanza importante. Cosa dici? Non lo so. Almeno qua l'hai eseguito con un certo rispetto, posso dire questo. Sì, no, è un pezzo che amo molto e in cui mi sento a mio agio e in cui sento di avere qualcosa da dire, quindi non lo so se lo rispetto. Rispetto nel senso... Chiedetelo a lui. Questo lo chiederemo a lui. E vediamo un attimino di attingere anche da quelle che sono i gusti musicali di Nico Maraia, citando anche altre persone, altri artisti in particolare con dei loro lavori che tu ti porteresti appresso dovendo scegliere tra un... La famosa isola deserta. Facciamo l'isola dei famosi, no, l'isola di Rockwave o di Blur Time Live, che è la stessa cosa. È difficile, molto difficile, nel senso che io amo molto la musica, ascoltarla, scoprirla, mi piace proprio scoprire sempre cose nuove, quindi sull'isola soffrirei molto. Gli artisti che amo molto sono molto gli anni 60-70 inglesi, anche se poi pure in America c'è un sacco di roba che mi piace. Però inglesi, possiamo arrivare a Elton John in alcuni momenti. No, Elton John non in realtà no, mi piace, ma non è uno di quelli. Ma Elton John più i primi album, soprattutto Madame Cost the Water. Sì, possiamo, mi piace. Possiamo andare su quello. Possiamo andare su quello, ma non è forse la radice dei miei amori primi, più direi Beatles, i Pink Floyd, anche se poi forse non si sente i Pink Floyd, i Queen, i Led Zeppelin. Sei un rockettaro. Sono un rockettaro, un rockettaro di alla radice. Poi in Italia invece amo molto alcuni cantautori importanti, Battisti, Battiato, Dalla. È proprio perché hai citato Battisti, secondo me mi sono fatto un'idea del tuo tipo di musica. Tu non sei del vecchio Battisti, sei del Battisti quello nuovo, quello di Madre Pennuta, quello di Hegel. Mi sento più di Anima Latina. Mi piace molto Anima Latina, lo adoro. Ma sono rivoluzionario per l'epoca, decisamente rivoluzionario. E anche lì molto sperimentale. Sì, lui ha sempre sperimentato, è sempre andato avanti. Lì si sente molto, anche lì Pink Floyd, queste sonorità così. Quello è il disco che io più amo di Battisti. Cioè, poi mi piace anche Battisti di Panella. Quello era sperimentare nei testi, Battisti. Però, perché musicalmente era piuttosto... Musicalmente era un po' soffriva, no, un po'. Ma volutamente così, secondo me. Sì, c'era sicuramente, un sicuramente era volutamente così. Era diventato anche un po' troppo elettronico, sì, forse, esattamente. In certe situazioni. Sì, un po' anni 80. Un po' anni 80, ma diciamo che è riuscito comunque a farsi strada, a far amare comunque le sue canzoni vecchie, però dicendo, vabbè, adesso faccio un po' di sperimentale. Quando uno è forte. Quando uno è forte in tutto. Ecco, in questo, tranne che in salute, perché ci ha lasciato molto presto. Purtroppo, sì. Vabbè. A proposito di sperimentazione, noi facciamo ascoltare adesso un pezzo pezzo molto molto breve che fa sentire un'altra anima di Nico Maraia. Allora il titolo è Mangio Sapone, ma sentite qualche sonorità particolare. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Quindi assolutamente un brano più sperimentale di così, voglio dire, molto poco radiofonico, però è stato un invito per far sentire anche quelle che sono, diciamo, le sonorità contorte che sono uscite in quel momento, e quindi anche la voce che all'inizio sembrava una registrazione mal riposta, in realtà voleva dire molto, perché è un brano molto, molto arrabbiato, si può dire così, Nico? Sì, voleva essere molto fastidioso anche questo. E quindi questo Mangio Sapone, da cosa deriva questo tuo sfogo? Non so, cioè, dirlo, si può bene dire. No, si può dire, ma sì. Dovrei pensarci un po'. In realtà era una situazione, volevo rappresentare una situazione di malessere, mangio sapone disteso in un letto bianco, quindi non so dove possa essere questo letto bianco, lascio alla vostra immaginazione, però io vedo una persona in un letto bianco che mangia sapone, quindi che fa una cosa volutamente sgradevole e dannosa, e quindi che si sta facendo del male ed è in una situazione di sofferenza. Flavio, Nico prima parlava, mentre il pezzo andava, di un suo punto di riferimento molto lato, Capita Beefheart, che ami particolarmente. Capita Beefheart, sì, perché diciamo che è un personaggio molto molto difficile, lo è stato anche per Frank Zappa, che l'ha anche mandato fuori dal gruppo, se non erro. È un sì, effettivamente in queste sonorità si riconosce sì, un po' sì, dei sì, Captain. Ho voluto tra l'altro usare anche tecniche di registrazione simili a quelle che lui ha usato per il suo capolavoro, sì, che è l'Automatic Scrape. Esattamente, il famoso doppio album rosso, sì, copertina rossa. Sì, quello con la faccia da pesce. Esattamente, ecco, proprio quello. Ecco, e quindi abbiamo citato anche Captain Beefheart per appunto dare un'elaborazione verbale a quella che mangio sapone. Sono le 22:12 minuti primi, abbiamo ancora ben 18 minuti di tempo per ancora continuare a scavare all'interno di queste sonorità di Nico Maraia, e siamo riusciti, mentre andava la canzone Mangio Sapone, a farci dare l'ok per ascoltare dal vivo un altro pezzo che ci tenevamo a farlo ascoltare ai nostri ascoltatori. Ricordando ancora, Nico, prima, come si fa per entrare in possesso del disco? Il disco può essere ordinato direttamente dal sito. Sul sito ci sono tutte le indicazioni per acquistarlo, c'è proprio l'icona con la copertina e lì ci sono indicazioni, altrimenti abbiamo dei punti vendita che sono sempre indicati sul sito, oppure si può richiedere attraverso le mail, però sul sito comunque trovate tutto. Benissimo, allora dove non arrivate mandate pure anche una mail alla nostra redazione, vedrete che in qualche maniera, anzi assolutamente, si riesce a mettersi in contatto con Nico Maraia. Abbiamo anche dei saluti che ci arrivano dal Brasile, in questo caso salutiamo Melissa Freire. Ah, ciao Melissa! Ecco qua, che ti sta ascoltando da loro. Cos'è, inverno adesso? Ma sì. Però in Brasile non c'è l'inverno. Credo sia più o meno il clima come qui, cioè bene, estate, allora, ma fa freddo. Allora, obrigado Melissa, resta in ascolto di Blue Radio Veneto. Cercate Melissa su YouTube. Sì, sì, benissimo, adesso lo faremo, bene. Allora, si parlava di quella canzone da ascoltare in versione acustica, in questo caso cosa facciamo tra le bellissime canzoni che ospiti in questo CD? Facciamo Luce Nera. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo e poi torniamo a commentarla insieme qui all'interno di Blue Time Live. Cancellato in due minuti quel che ho detto poco fa, dove l'ombra di una mano salutando ho detto piano, fatti in là, là, e ti amavo due minuti fa, come luce nell'oscurità. Pace e tue libertà. Va. Ti do tempo, due minuti ho cancellato quel che hai detto poco fa. E risparmiati il sorriso, sei il tuo viso che mi ha detto fatti in là. Va, e ti amavo due minuti fa. Ridipingo le mie verità. Luce nera nell'oscurità. Non ha luce, la tua voce va. Ti ho concesso due minuti hai cancellato il che ho detto poco fa. E mi hai preso per la mano, sussurrando, ma sei rimorso, sciolto in pianto, quel che sento, resto qua. Luce nera nell'oscurità, non ha luce, la tua voce va. Vivi in pace le tue libertà. Non ha luce, non ha voce. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Abbiamo ascoltato in versione acustica quella che è la traccia numero 2 dell'album di Nico Maraia, che si intitola Diana, appunto questa luce nera, un leggero swing jazz molto spazzolato nella versione da CD, pur sempre elegante, con questo pianoforte da Stefano Corria, scusate, sì, prego. Scusate se io li cito, ma devo citarli. Assolutamente sì, meritano. Contrabbasso di Gianluca Pizzorno, che ha anche prodotto con me il disco, quindi... due musicistoni ci sono in questo pezzo. Allora, in questa luce nera c'è una storia di un amore finito, ma più che un amore finito, una visione nuova di quello che è l'ex amato. È un quesito, ma si vede la luce nera al buio, Nico? Evidentemente la luce nera al buio non si può vedere. Però c'è un qualcosa che si rielabora, no? O perlomeno abbiamo inteso così, quando finisce una storia si fa una rivalutazione dell'altra persona, la si vede sotto un'altra luce, sì, non necessariamente. Sì, c'è anche un po' la sconfitta finale di dire com'è? Ti ho concesso due minuti e cancellato quello che ho detto. Eh sì, questo è proprio così. Assolutamente sì, molto molto forte. Anche musicalmente un pezzo... Dobbiamo sottolineare, cari ascoltatori, che stasera Nico l'ha dovuto fare al piano. Non è proprio così quando lo suona con una band. Quindi, no, quindi ci sono state delle variazioni. È stato bravo, da tempo che non variava così, e ha variato bene, dai, possiamo dire. Ha variato, sì. Ha variato. No, anche perché gliel'abbiamo richiesta tipo un jukebox, no? Non è che l'abbiamo concordata prima. Abbiamo detto due secondi prima, gli abbiamo puntato le dita sulle tempie, abbiamo detto devi suonarci questa, assolutamente. Quindi anche molto democratici in questa trasmissione. Sì. Dobbiamo sottolineare che questo è il pezzo che noi abbiamo lanciato come disco proposta per questo album. Io ed Alberto abbiamo deciso, ci piaceva molto questo pezzo, allora abbiamo mangiamo questo. Il bello di questo disco che il bello che trovo nei riscontri di questo disco è che tante persone mi danno pezzi diversi come il loro pezzo preferito. Questa cosa mi dà soddisfazione, è una cosa positiva. Sì, non c'è il pezzo che tutti mi dicono questo è un bel pezzo, ognuno dice la sua, salvo su Mangio Sapone, che è quello che lascia un po' più. Ma se uno ama la sperimentazione può essere anche aspetto ascoltatori, aspetto che arrivi quello che mi dice Mangio Sapone è il mio preferito. Perfetto. Va bene, speriamo che non sia il signor Palmolive. Vabbè, allora abbiamo ascoltato molti pezzi, ancora la trasmissione non è finita e quindi diamo anche facciamo onore a quella che è la canzone che dà il titolo al CD e quindi ci ascoltiamo Diana. Che dite? Sì, volentieri. Bene, perfetto. sei servita a nulla neanche tu. Ma ti chiedo poi, rimanda tutto quel che puoi. Lasciamo che il mondo pensi ai fatti suoi. Tanto andare a ballare non ti salverà, tanto piangere o ridere non cambierà, tanto fare l'amore non ti basterà. Quando è sabato sera tu rimani qui e aspettami. Nei miei lunghi silenzi, negli argomenti che non tratto più, poi raccoglimi, risvegliami. Sul fondo dei miei sogni dormi tu. Tanto stare a guardare non mi cambierà, tanto piangere o ridere, come si fa? Mi avvereni il bicchiere con facilità. Ogni sabato sera l'ombra di una stella americana, Diana. Starci a aspettare non ci rivedrà, se la piangere e ridere come si fa? Quando hai fatto l'amore con tranquillità, tanto oggi è domenica, la bambina nata all'ombra di una stella americana, Diana. Circo detto mondo tu sei mia, che affronto ritenerti la mia grande acrobazia, Diana. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Un pezzo come tutti gli altri che per apprezzarlo completamente bisogna ascoltarlo proprio dall'inizio alla fine, a capirne tutte le effusioni che escono da queste sonorità e poi anche cogliere tutti quelli che sono i rumori di sottofondo che Nico mette qua e là. E quindi sempre un consiglio che noi diamo, in questo caso la musica va assolutamente ascoltata in cuffia. Io ormai ho le orecchie bollenti perché da un'ora e mezza non mi levo le cuffie, ma perché non ho voluto proprio perdermi nessuna nota di quelle che sono appunto le musiche di Nico Maraia, appunto con questa Diana, che come si ricordava in principio non era una persona, diciamo, di riferimento conosciuta, ma era un po' un'immagine più forte di quella che è un ritratto femminile, diciamo. Sì, vuole essere una persona nella storia della canzone in sé, un'immagine, una meta, un sogno, non lo so, per questo viaggio che abbiamo detto, questa era l'idea. Poi ripeto, ognuno, ogni Marco Polo sceglierà la Diana, la sua Diana, che cos'è. Certo, allora abbiamo ancora pochi minuti per restare insieme, vogliamo anche salutare chi ti ha dato una mano, quindi per non dimenticarne proprio nemmeno uno. Partiamo da... Sperando di non dimenticare... Abbiamo preso proprio la copertina per riuscire a ricordarli tutti in questo momento. Nico. Ricordarli tutti in realtà è impossibile, perché questo disco è stato realizzato con la collaborazione di veramente tantissime persone disponibili, a partire dai musicisti e da tantissime persone. In particolare devo ringraziare Gianluca Pizzorno, appunto, che ho citato già prima, Lorenzo Mazzè, che ha avuto tantissima pazienza e ha suonato le chitarre ed ha registrato il disco, e poi la By Heart e Edizioni Universitas, che mi hanno sostenuto nella realizzazione. Poi saluto Max Riso, che invece è il batterista delle Serate Romane. E arrivo venerdì, Max, andiamo a suonare. Ah, benissimo. Tieniti pronto, Max. Fantastico. Allora, che dire, abbiamo percorso questo viaggio. Siamo partiti con Marco Polo, siamo arrivati con Diana, proprio la traccia 1 e la traccia numero 12 per questo viaggio all'interno del cosmo di Nico Maraia. Allora salutiamo ancora una persona che ci sta ascoltando e ci ha scritto su Facebook, Vito Muschitello, che ciao, dice, Vito, che dice Nico, comportati bene. Ecco qua, quindi... Ciao Vito, è un altro grande cantautore. Benissimo, allora segnalacelo, facci ascoltare qualcosa di Vito. Volentieri. Abita Vito dove? Muschitello, in arte Muschi. Ah, Muschi, di dov'è? Lui è di Bitonto, ma credo che viva Forlì. Quindi comunque... provincia di Bari. Sì, ma è sempre in giro anche lui a suonare, quindi... Benissimo, quando sei da queste parti, Vito, facci un fischio. Anzi, meglio una telefonata, dai. Ok, così valutiamo tutti i discorsi per offrirti un'opportunità live. Allora, Nico, siamo arrivati alla conclusione. Non avremmo mai voluto affrontare la parte di saluti finale. Sì, effettivamente è volata, grazie anche alla tua buona musica. Però facci anche un breve cappellino su quello che è il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare live, dove noi ti lasceremo i microfoni aperti, noi ci allontaniamo pian pianino e lo spazio sarà totalmente tuo. Allora, mi chiedono sempre, ma è nevicato nel marzo del 73? E io in realtà nel marzo del 73 non c'ero, quindi questa risposta non la so dare. So per certo che da qualche parte sarà nevicato. Sì. Quindi questo è un pezzo che parla di un passato e di un futuro che forse non abbiamo più, ma forse dice più il pezzo che spiegarlo a parole. Comunque adesso è vero che nevica anche in aprile, maggio, per cui le nostre parti poi, vabbè, ormai la primavera, l'estate. Quindi è un brano persa. Premonitore. Assolutamente sì, quindi per chi c'era, per chi non c'era, quindi ci ascoltiamo Neve nel marzo del 73. Allora Nico, prima di appoggiare le tue dita sulla tastiera, noi... ti salutiamo, ti ringraziamo di essere stato con noi e di averci fatto... Grazie a voi davvero. Ecco qua, abbiamo sentito questa voce un po' marziana, ecco qua. Grazie a voi davvero. Già pronta per la canzone. E ti auguriamo un buon rientro e tante cose per questa musica davvero, davvero bella, davvero gradevole. Allora ti lasciamo i microfoni aperti, Nico. E allora noi salutiamo quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande caloroso ciao, buona serata a tutti. Vi lasciamo con l'ultimo pezzo di Nico Maraia. Dopo di noi ci sarà Rock Wave, Alberto Prisco, fino alla mezzanotte con Blu Radio Veneto. Ciao a tutti, buonanotte. Io sono un gatto, io sono un aquilone con le mani che ti tocca. Vorrei adagiarmi per dormire un po' sulla tua bocca. Di fragola. Tutto un tratto, avanzi di una cena persi dentro a un letto. Sono anni che sto nudo e sveglio mentre ti aspetto. Bocca di fragola. Neve nel marzo del 73. dove sei andata, dove è andata lei? Lei che era mia, lei garanzia di un futuro che ora forse non abbiamo più. Un futuro che ora forse non abbiamo più. E sono un gatto, io sono un aquilone con le mani che ti tocca. Vorrei adagiarmi per leccare ancora la tua bocca di fragola. E sono un pazzo se penso che vorrei svegliarmi ancora sul tuo petto. Se ora sto in silenzio è perché aspetto. Neve del marzo del 73, dove è finita, dove è andata lei? Lei che era mia, lei garanzia di un futuro che ora forse non abbiamo più. Neve nel marzo del 73, pioggia incantata resta accanto a lui, lui che era mio. Fantasia di un futuro che ora forse non abbiamo più. Un futuro che ora forse non abbiamo più. Blue.